È una cassa di legno contenente arnesi di sicuro in possesso e in uso da un qualche artigiano che fabbricava botti, insomma. E per fabbricare botti si parte da un legno pieno, un legno massello, non vi so dire la qualità del legno che serve, in genere però è quercia, e veniva la piegatura della botte avveniva usando degli scalpelli a mano, e uno di questi è, cioè, questo è uno, alla parte interna e la parte esterna veniva mega premuta, veniva scolpita con oggetti del genere. Poi le singole asce si assemblavano e si univano con questi oggetti. Se vuoi scriverci il numero 1 qui, lo puoi scrivere. Okay. Vabbè. Questi oggetti che sono delle trivelle per fare dei buchi al legno una volta assemblato. I buchi servivano per infilare l'oggetto di legno che serve per spillare del vino. E comunque poteva essere fatto il buco con la trivella piccola, poi tenendo il centro allargato con questo oggetto qui, che è uno svasatore, un so io me come si chiama. Un trapano a tassa, tutto fatto di legno, Allora, di trivelle ce n'è di diversa misura, dalle più piccole alle più grandi. Questa è una sega a mano, non li intrappano a tasta manuale. Questa qui è una sega a mano, non ti so dire per cosa sia fatta, la si usava per spasti piccoli per tagliare. Sono interessanti per come sono costruiti nell'insieme queste robe qui.